prezzo è considerato, diciamo che stavo scendendo, la parte più buia l'ho un po' risparata, ma diciamo che se fossimo stati in tanti si sarebbe potuto collaborare anche con gli altri operatori del CISO, una cosa magari mettendo una radio della 27 in un'ambulanza, come abbiamo già fatto quando c'era Giovanni Frice, eccetera, eccetera, quelli di Porto Torres. Mettevamo una radio della 27 in ambulanza e se c'era qualcosa ci chiamavano, capito? Sempre in ritardo, partano per fare polemiche, già ti volevano partire come tu sai dall'inizio, come qualcuno voleva programmare, voleva fare, invece alla fine sono sbattute le palle, quindi io non sono intervenuto, ti stavo ascoltando proprio per non creare polemica, però hai pienamente ragione. Bisogna che le cose si organizzino e che si facciano, non che si parli solo per dire qualcosa, capito? Io il 12 giugno ho organizzato proprio una spedizione alla Ginara, visto che concomitanza col CISO, ma che inizia il servizio medico della Ginara dal 12 giugno al 12 settembre e io il 12 vado, sono già in contatto con Giampaolo. Con un placente vado, organizzo una spedizione e sicuramente farò la prima attivazione per il trabucato, come avevo detto. La farò da solo, non me ne frega niente, ma almeno faccio qualcosa per i cacchi miei, perché intanto si aspetta gli altri e non succede mai niente, quindi benvengano iniziative come hai detto tu, però bisogna farle prima che se ne parli dopo, capito? Bisogna farle prima, non parlarne dopo che si sono già fatte le manifestazioni, perché c'era tanto da lavorare alla festa grande e invece nessuno ha messo niente. Vabbè, lasciamo perdere. Oh, chi è che chiama Mori? Buonasera. Infatti qua è così. Ma io l'ho detto per il prossimo anno, non per quest'anno, è per il prossimo anno, visto che diciamo c'è sempre da fare, la cosa degli incroci, da tutte le parti. Da fare, ce la fa, te l'ho detto, hai ragione, quello che hai detto sono parole sante, però bisogna farle, ti ripeto, prima che inizino le manifestazioni, organizzazioni, prove, controprove, anche con le radio, vedere distanze, antenne, qui e là, no. Serve più a niente neanche parlarne, capito? Comunque ci vedrà, io come tu sai non sono più nel direttivo della sezione, non ci ho mai messo piede, praticamente mi sono distaccato da subito, quindi se vogliono fare facciano come vogliono, io come radioamatore te lo sto dicendo, sto attivando il 12 giugno, attivo la torre di trabucato della Ginara di Acqua Reale e non me la fotti nulla. Chi vuole venire viene, ci paga un biglietto, vedi, sta in compagnia, chi non vuole venire si arrangia, non me la fotti nulla. Io porto la radio, porto tutta la mia attrezzatura e tutta la mattina parlo da lì. Poi non me ne frega niente. Ma vai da radioamatore? No, da radioamatore da Cimbi vado. Ah boh, vediamo, avanti. C'era quello che diceva avanti, ascoltate voi che da Palermo. Certo che ti ascoltiamo, Palermo. È la stazione doppio lunga della città di Sassari che ti percorre all'inco. Nella città di Sassari non ho copiato chi le tue mezz'era, comunque qua Borghia da Palermo di Cordialite si saluta. Doppio rum, città Sassari, Sardegna. Siamo segretario per il in Sardegna, ti ascolto pure te, una buona domenica pure per te, perché ti ha scavolato. Ma pure con il mio amico di Canaria. vai là. Attenzione, pagava. Gianni, ma ci sei ancora? Sì, sempre qua sono, sono sempre in attivo. Nella Francia. No, mi sono ascoltato un attimo. Ho visto che c'era troppo macchietto, mi sono andato a fare una confessione. Decimesimo, si è ascoltato il sede. Palermo ci ha sentito, va. Palermo ci ha sentito. Tipo la voce quella Cina, già. Sì, perché siamo a due passi nella fase. Ce la mangio la radio. È più forte prima del radio. Binario, buonasera Peppe Squalo, vi ha salutati, cappa. Beppe, ciao, una persona di Paletta, ci sentiamo, Gabbio. quando firmavo subito. Mi cavo, a quel Paolo lo poca. Milano. Dio, sono prima cuore. Chi è che chiama Milano? Avanti Milano, ne. Ascolti Giuseppe a Palermo, ne. Pesquao, ma Milano che fa? Ma ti ascolta per Pesquao. No, sentiamo che ha preso che vai a cagare. Sto modulando una radio, un baracchino, dai. Con l'eco anche staccato, anche senza eco sono oggi, capito? L'eco non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo nel camion. 9:10 mi fai buona la mia antenna. Qua c'è, abbiamo l'antenna sul tetto. Abbiamo l'antenna sul tetto, non sulla barra, la barra l'abbiamo parcheggiata. Perché di mio buon l'eco ce l'hai separato, l'eco lo lasci in un camion e la brancia di ferro a Palermo. Non l'ho attaccato, dai, ce l'ho staccato, c'è un apparato senza... Ce l'ha lei, come non è bello questo eco, è un apparato originale come nasce dalla casa questo, hai capito? Voi nella barra ne ho altri diversi, dai, come ce li avete voi, capito? Sono apparati come ce li avete voi, capito? 2001, nella barra, qualche 48. Sì, non capisco. Faccia lunga, sperando che mi ascolti con le coordinate, non ho visto la moto con questi grandi modulatori, cara. Devi portare la balana, ma c'è di Dio fuori, dai, non ci sono problemi. Ma qui si ammazza sulla moduleggia, eh. Ah no, tu cosa ne dici? Salutare papà Palermo, dove sta papà Palermo? Grandissimo amico mio, dove sta papà Palermo? Dove noi, stasera si prende verso la 9, per adesso una cosa non trappacca, se riprende dove? Ci vediamo, alle 9, ci vediamo, passa, guarda quando sarà più sopra, capito che dite? Adesso è a casa, amore stanco di ieri, niente, positivo, con caso abbiamo che adesso è a casa. A casa non è andata, si è parato, non è stazione a casa. Sempre in ascolto. Cosa ti vulcano, dai, se vuoi stasera per ascolto non c'ho papà Palermo, te lo saluto. Ti manda il saluto Gigi Vulcano, capito? Ti manda il saluto il tuo carissimo amico Gigi Vulcano. Cosa ti dico, dai, stasera te lo saluto, lo mancherò, io dico che ti saluto a Gigi Vulcano, va bene. E allora ti ho fatto la bella Sicilia, capito? Positivo, capito, Salvatore Sicilia, correggimi se ho capito bene, Salvatore Sicilia. Io mi portavo da Roma, non fa, non è più capito. Ah, Sebastiano, capito al 100, buonasera Sebastiano, Gigi Vulcano qua, nel nord Sardegna. Con un salutone alla stretta di paletta di mano da qua, dall'isola sarda. È positivo, molte modulazioni arrivano qua, tutto dall'isola della Sicilia, arrivano molte modulazioni qua. Poi volevo belle cose, per la carta del mercato io ti ho salutato, Gigi Vulcano sulla bella piccola, ci abbiamo mandato Gigi per te, capo. È positivo. io non ho capito ben niente che ci sono state sopramodulazioni, ho sentito solo che mi ha rilanciato, ma la cosa è un po' tripla, che arrivate forti ma tutti assieme, capito? Tutti le modulazioni arrivano tutte assieme, capito? E faccio fatica a tirarmi fuori, capito? Potremmo formere, non ho capito come sci qua il passaggio, c'è solo una che Sardegna che ha fatto la copertina. Ciao Volcano, buonasera, buona per te, per ascoltare. Pesce Magaria, no? Ciao Pesce Magaria, a te ti ho ascoltato forte e chiaro, buonasera, siete tre e ben ascoltato nell'isola Sarda, dai. Sei arrivato fortissimo, hai trovato il varco aperto e sei arrivato via mare forte come un uragano. Capoccio, dai, buonasera, buona domenica per te. Avanti per te, Fulmine. È positivo, dai Pesce, qua siamo nella provincia di Sassari, dai, siamo a riposo e riprendiamo domani mattina e siamo a casa, capito? E ci stiamo facendo due modulate da casa però, con l'antenna sul tetto, capisci? Non dalla barra, da casa, capito? Cosa dico, dai Luca? Ciascuno è sicuramente perché stamattina non ho visto neanche al solito padre dove va la domenica, figurati. È positivo, comunque lo guarderò in Facebook perché tanto qualche filmato come è stato altre volte ci saranno in Facebook. Lo so che c'è, che ieri c'era quel raduno, lo so perché mi ha invitato, capito? Mi ha invitato a me e a Tommaso Civas, ci ha invitato, non quest'anno ma anche gli altri anni scorsi, e quest'anno ci teneva che venivamo a quel raduno lì, capito? Ci teneva Lucio Radio Colto, ci teneva, però non è stato possibile, dai, questo non è stato possibile, io non sono mai stato, a dire la verità, in Sicilia ai raduni non sono mai stato, Borgo Manero sì ci vado sempre, quello di Borgo Manero, però a quello non ci sono mai stato, mi piacerebbe, però quest'anno non ce l'abbiamo fatta, dai, lo sapevo che ieri c'era il raduno, lo sapevamo già da qualche mese, perché ce l'ha detto Lucio, ce l'ha detto e ci ha invitato, dai, ci ha invitato a questo raduno, ma non è stata possibile la cosa, capito? Capoccio, dai, guarda, ne approfitto per salutarti, qua la numerazione si è abbassata e si è abbassata anche tu di San Diego. Ti saluto, buona serata, piacere mi ha fatto, un saluto alla tua Maso Civas e a tutti gli altri ragazzi, ce ne andiamo. Il pesce magari ti ha salutato, capo. Ciao Pesce, dai, fatti buon proseguo della serata, buon tutto, ce la riascoltiamo alle migliori, ciao ciao ciao. Ciao Ricombro, buonasera per te. Yeah. Vedevo poi se mantiene che fa qualche colpo là, facciamo due detenzioni, poi non la portava a buona. Non ti so dire. Poi si arriva, dai, non sto a noia, dai, poi si arriva a scendere da te. Ma che dobbiamo fare? C'è più sta noia che altre cose, perciò abbiamo un po' di noia, tante... Sono sui 120-130 km, se non di più, lontano da lui. Carlo, moglie. Benissimo ascoltati in questa domenica di sole qua in nord di Sardegna. Provincia Espresso Cosenza, coordinate in Sud Italia, Provincia Cosenza, Gambia. Attenzione, canale 45. Ah, si dico che però si chi è l'amico, buonasera. Ascoltate il pesce in Bagheria, Gambia. Buonasera, ieri vi salutava Donuccio. Spesso bianco in Torino, Minuccio, capo capo. ascoltato l'isola della Sardegna, cambio, cambio. Thank you. di voce a fare.